Senta, ma sa che i giudici pensano che suo marito sia una sorta di selezionatore, cioè quello che controlla addirittura la qua. Senta, a me questa cosa non mi interessa. Quello che No, lo pensano so i che non giudici, l'interessa. no, guardi, quello che pensano i giudici lo No, pensano, sono le accuse, ma ora, ma lei non ci lei, crede a una cosa del allora, genere, immagino, no, non ci credo per una semplice no? Ecco, ragione, quale? che i giudici rappresentano l'accusa. La difesa non ha potuto parlare, non ha potuto portare dei testimoni. Le posso dire che mio marito non gira mai se non ha la scorta, non guida. Ogni volta che si muove con gli autisti e i carabinieri, no, la scorta dei carabinieri. Vabbè, questo che Non... c'entra, scusi. Beh, No, che cosa c'entra? Che ogni passo che ha fatto è stato sotto controllo. Uno. non è che Poi. sta pure a casa, non è che sta con i carabinieri dentro casa. Ah, dentro casa glielo vogliamo mettere dentro casa? Perché No, no? per Non sarebbe, carità. no, No. non sarebbe male. Mettiamo anche le video. Guardi, lei l'ha visto il film La vita degli altri? E come no, l'ho visto, Ecco, certo. io adesso mi viene voglia di andare in bagno e accendere l'acqua calda che ho fredda della vasca quando parlo, va bene? Allora, questo è. No, no, no, ma No, ho. no, no. Poi posso dirle una cosa? Sì, mi dica, mi dica. Non è. Allora, nessuno ha avuto modo di fare la minima difesa, né il Cioè, minimo lei dice, abbiamo confronto. sentito solamente l'accusa. No, ma purtroppo questo in Italia funziona così. Ma questi È la. giudici, Senta, non come voglio li parlare definisce di. lei? Come Non li voglio definisce? parlare. Cosa devo definire? Le inchieste italiane, la vista, La la Boccassini, Sara. come la definisce la Boccassini? No, nessuno fa inchieste. Nessuno, Nessuno non fa sono inchieste inchieste. queste qua, non sono No, inchieste. non sono inchieste. E Non che sono sono? inchieste. Che sono? Che sono? Non lo so che cosa sono. Sono ascoltazioni di gossip. Le inchieste non sono state fatte. Però scusi, Non siamo riusciti signora, a c'è venire un'operazione a. spionistica, cos'è? Un'operazione spionistica, Ma una. non lo so che cos'è. Guardi, che cosa sono inchieste quelle che si facevano nei paesi comunisti? No. Allora, Ah, è che cosa uguale, sono questa è inchieste? un'inchiesta da paese comunista. L'ha vista la vita degli No, altri, come no? lei Le ho qui. vista, come non l'ho Ah, vista? e No, noi però, siamo signor De Feo, mi scusi, lei quanti definisce queste sono inchieste da paese ogni. comunista? Sa, e quanti sono? Allora, quanti sono quelli che vengono ascoltati giornalmente? Lo sa quanti italiani sono ascoltati comunemente? 6 milioni. Sì. Sa quante ore? Sa quante indagini, quanti personaggi sono seguiti e intercettati in Italia? 120.000. Sì. Sa quanti sono in Francia? 20.000. Sa quanti sono in Beh, dunque, Svizzera? 5.000. lei definisce l'inchiesta nei confronti di suo marito, eccetera, un'inchiesta quasi da paese comunista, Ma sostanzialmente. no, io non, guardi, non è questione, è un metodo, è È il un metodo da metodo, paese comunista. però scusi. è un metodo da paese comunista, Abbiamo certo che no, è la mia, il traffico, abbiamo la scusi, ma borsa. lei la Torno psicologa, subito.